Bene, siamo all'appuntamento adesso a Visionari di giovedì 3 maggio del 2012, 87.900, la modulazione di frequenza Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Troverete gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 4 maggio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana e poi il link per leggere le recensioni e riascoltare la puntata precedente. Cominciamo allora con gli ospiti di questa puntata. Sono sopraggiunte delle novità in scaletta, una di queste riguarda la regista Costanza Quatriglio, che intanto saluto, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa, Costanza. Ciao, ben ritrovati. Perché mi è giunto il 1 maggio un tuo SMS che mi diceva che una clip di un tuo ultimo lavoro sarebbe stata messa in rete. Siccome riguardava il 1 maggio, sono subito stato molto interessato e allora ti chiedo di parlarne qui in radio. Sì, molto volentieri. Era in rete il 1 maggio sulla home page di Repubblica, un minutino di una clip appunto di un documentario in realtà molto breve, sono 16 minuti appena, girato veramente proprio in 3 giorni, una cosa super rapida, che mi è stato chiesto dalla provincia, dalla vicepresidente, la Cecilia D'Elia, per introdurre un convegno che avesse per oggetto donne e territorio, cioè la questione del femminile, diciamo, la gestione della vita, del lavoro, eccetera, dal punto di vista prettamente femminile. E così in pochissimi giorni ho trovato le persone, insomma mi sono data da fare, ho costruito 5 racconti, 5 ritratti di donne, apparentemente normalissimi ma straordinari nella loro, diciamo, normalità, che ne so, per dire, dalla precaria che scopre che la bambina, sua figlia, gioca a Barbie precaria, cioè ha talmente interiorizzato il senso di incertezza esistenziale della madre che lo ha trasmesso pure nel gioco della Barbie, alla super manager filippina che, proprio perché filippina viene considerata sempre la colfo, la tata dei suoi figli, invece lei è una super dirigente d'azienda o cose così, alla ricercatrice alla ricercatrice che studia e lavora negli autogrill praticamente per ottimizzare i tempi perché anche pendolare, alle super, insomma, un sacco di storie, ma tutte relative, diciamo, alla questione del lavoro soprattutto. Allora, come ti sei mossa in pochi giorni per arrivare a questi contatti, Costanza? Ma è molto semplice, diciamo, abbiamo, per quanto riguarda appunto il tempo a disposizione che era molto poco, abbiamo attivato, diciamo, tutti i neuroni del cervello, diciamo. Sono stata aiutata anche da Francesca Cima, la produttrice della Indigo Film, abbiamo attivato la nostra rete di relazione, abbiamo trovato comunque delle donne che non conoscevamo, no? Estranee da filmare, no? Di cui la storia ci sembrava interessante. La storia di Barbie precaria, che è quella che colpisce più al cuore, è quella, la storia di una persona che conoscevo invece, che mi aveva raccontato mesi fa, mi aveva molto colpito questa faccenda, ecco. Quindi, diciamo, il poco tempo è servito anche per sintetizzare molto e quindi girare l'indispensabile, montare in un giorno e consegnare, diciamo, al pubblico questo piccolo film. Ecco, proprio sulla necessità di tagliare, di essere stringata, di sintetizzare, su cosa hai centrato questi pochi minuti? Ma guarda, ogni storia ne contiene tante altre, okay. Quindi l'idea era che ogni storia fosse un punto di sintesi per contenere più questioni possibili, e quindi anche l'immagine, è un dialogo continuo tra l'immagine che dice una cosa, la voce che ne dice un'altra, e insieme producono senso ma in una direzione, diciamo, di sguardo di complessità, quindi non per semplificare, ecco. Per cui mi sono indirizzata in questo modo, cioè ho scelto delle storie che potessero al loro interno contenere più questioni possibili. E un bilancio del lavoro al femminile che puoi fare? Ma c'è un'incertezza e una precarietà che non è soltanto una precarietà, diciamo, come si intende adesso, quella del lavoro, eccetera, ma è proprio esistenziale. Io me ne sono accorta e ne sono assolutamente convinta, perché c'è un problema molto serio di ruolo. c'è la donna in più rispetto all'uomo che in questo momento subisce la variazione di una condizione che va sempre peggiorando per quanto riguarda il lavoro, subisce anche la pressione di un dover essere che non corrisponde quasi mai a una, alla propria possibilità effettiva, no? Sì. Madre, donna, lavoratrice, è il welfare che manca, c'è in questo corto c'è una super nonna che ha dedicato tutta la sua vita all'accudimento e si è resa conto soltanto da super adulta che voleva lavorare fuori da casa. Mm. E quindi, no? E quindi è una precarietà o comunque un'incertezza esistenziale sulla quale poi la forza delle donne viene, come dire, no? Vacilla a volte. Sì, sì, sì. È come quando si dice, no, se stai sui tacchi di 12 centimetri come fai a essere ben saldo sul tuo cervello, no? È un po' così. Perché il così di getto la prima cosa che mi viene in mente rispetto per esempio ai dati che ci arrivano è che l'occupazione al femminile, intanto c'è un problema di maggiore disoccupazione rispetto al maschile, di paghe più basse e anche più basse le mansioni, i ruoli nelle varie aziende o insomma o società. Ma questa cosa è assolutamente vera, tra l'altro non si può neanche nascondere. Io nella mia professione ho sempre pensato che questo fosse un falso problema, in realtà non lo è, mi sono accorta adesso, negli ultimi tempi, che non è un falso problema, anzi che è un problema serio. L'accesso alle professioni per le donne è molto più complesso, tanto che quando ci sono i concorsi, e i concorsi non sono truccati o cose del genere, le donne i concorsi li vincono. Mm-hmm. Questa è la differenza vera. Quando ci sono i concorsi, cioè le donne sono all'eccellenza, è naturale che sia così, come gli uomini del resto, insomma. Mm-hmm. Ma è molto difficile l'accesso, cioè ci sono degli sbarramenti, poi soprattutto nel mondo delle professioni c'è una grandissima povertà di mezzi, no? La ricerca lo sappiamo, non parliamo poi delle professioni intellettuali, del cinema, eccetera. Senza considerare poi la questione soldi si danno agli uomini. Sì, questo sì. È così, sì. No, senza considerare poi la questione maternità, per esempio. La questione maternità è importantissima perché le donne, cioè, è naturale che facciamo sempre gli stessi discorsi, no? In questo video si vede bene, cioè per vestire dei figli devi in qualche modo fare tripli salti mortali che gli uomini spesso non fanno. Mm-hmm. E quindi è faticosissimo, però nello stesso tempo non ha senso neanche rinunciarvi. Poi non parliamo, vabbè, licenziamento, la promessa di licenziamento in bianco, eccetera. Cioè stiamo parlando di roba che deve essere superata, e che deve essere superata, ormai sono anni che diciamo che deve essere superata, e sono anni che tutti, primo maggio ci ricordiamo che questa roba fa parte totalmente della nostra civiltà, e non va bene per niente. Mm. Senti Costanza, in chiusura, ricordiamo il titolo di questo lavoro e la sua disponibilità in rete. Allora, il titolo è un titolo così programmatico, io qui, lo sguardo delle donne, appunto dato a questo convegno, si trova adesso in rete, credo direttamente su YouTube, credo che il link dalla homepage di Repubblica sia saltato, quindi c'è una pagina Facebook adesso che si chiama Io qui lo sguardo delle donne tutto attaccato, e poi su YouTube esiste sia la clip, sia il film intero di 16 minuti, sia un piccolo spottino di 45 secondi. Io ti abbraccio e ti do appuntamento alla prossima volta. Grazie, grazie. A presto. Ciao, ciao Costanza. Ciao. Costanza Quatriglio. È con noi Giulio Squillacciotti, regista del documentario RMHC 1989-1999 Hardcore a Roma, che sarà presentato al Cineclub de Tour domani 4 maggio. Intanto Giulio, ben trovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti. Come va? Bene, bene, molto bene, grazie. Allora. Voi? Beh sì, bene, bene. Ero particolarmente incuriosito da questo lavoro, poi ti spiegherò anche le ragioni. Allora, intanto parliamo di cosa si tratta. Beh, allora, questo qui è un film documentario sulla scena romana musicale, nello specifico sull'hardcore, dalla metà degli anni 80 fino alla fine dei 90, quindi ho preso in analisi un quindicennio il quindicennio di esperienza dell'hardcore a Roma, quindi quando è nato sulla base delle preesistenti scene locali, come si è sviluppato con tutte le varie i vari caratteri e gli stilemi sia musicali che attitudinali che venivano dall'America, quindi non dal punk inglese, sì. Come queste cose a spizzichi e bocconi sono arrivate a Roma e si sono così metabolizzate nella realtà locale, quindi con tutto il discorso legato al come venivano veicolate le informazioni, come si passavano di persona in persona, quindi un lavoro più sulle persone che di fatto è sull'humus sociale romano più che sulla musica in sé. Allora ti chiedo intanto riguardo alla scelta del periodo che hai preso in considerazione, se ci sono delle date di inizio e di fine di questo periodo indicative e se ci sono anche date storiche all'interno che sono diventate memorabili per la scena. Guarda, io molte cose, appunto, quando ci si approccia a un lavoro del genere ci sono delle idee generali che uno ha, che sono poi quelle che insomma spingono a fare un lavoro del genere, che poi vengono un po' rimasticate sulla base di quello che la gente dice nelle interviste. Quindi quello che ho capito io fondamentalmente è che esisteva un aspetto super politico musicale legato al punk, legato a tutti i discorsi politici post anni 70 che c'erano a Roma, quindi centri sociali, e invece i primi gruppi che nell'84, uno in particolare gli High Circle, che nell'84-85 si mettono insieme e vogliono fare una cosa musicalmente un po' diversa, anche prendendo qua e là i caratteri estetici palesemente americani. E quindi diciamo che l'84 può essere considerato un po' l'inizio di questa cosa, poi sì. Coesistevano tutte queste scene insieme, non era appunto un taglio netto con quello che già esisteva. E poi alla fine con l'89, negli anni primissimi anni 90, c'è questa costruzione abbastanza incosciente, in senso di appunto non necessariamente voluta, di una scena e di un gruppo di persone che si mette insieme, si trova degli spazi, in alcuni casi anche alternative ai centri sociali, per fare quel genere di musica, quindi con appunto un'attenzione molto più orientata alla musica più che appunto all'attitudine estetica delle creste, dei chiodi, così poi appunto di fatto comunque convivevano tutti insieme. E poi negli anni 90 si sviluppa insomma una scena che poi diventa abbastanza autonoma, fatta da gente molto più giovane rispetto appunto a quelli che facevano la musica e facevano la politica prima. Sì. Oh Giulio, ti dicevo all'inizio di questa curiosità perché verso metà degli anni 90 facevo qui in radio una trasmissione che mandava in onda le registrazioni dei concerti nei centri sociali, e la metà degli anni 90 è stata un'esplosione della scena, soprattutto hardcore della seconda generazione. C'erano tanti gruppi attivi in quel periodo a Roma. Allora ti chiedo, rispetto invece al tuo studio, al tuo documentario, prima parlavi anche, accennavi ai centri sociali e ai locali, ecco, se quali erano i luoghi di riferimento e più o meno indicativamente quante le band che si possono inserire in questo discorso. Tu parlavi delle famose cassette del Feretro, cioè Fedro. Delle registrazioni di Feretro. Fedro, sì. Fedro, no, Feretro, mamma mia. Comunque, sì, guarda, io ti dico quello che poi appunto ho messo insieme dalle varie voci, quello sì. che appunto si evince da questa cosa è che esiste questa prima scena fatta dagli High Circle e poi avanti dai Groving Concern, quindi quelli che costruiscono veramente una scena, la famosa Roma Crew, sì. Quindi Tinti Carboni, gente che ruotava attorno ai gruppi anche non necessariamente suonando, e poi c'è appunto una seconda ondata che viene fuori con i concerti che vengono fatti al Blitz, che era un posto dove un centro sociale dove si andava a skatare, quindi la WBNE, che era la Working Blitz New Emotion, che era un gruppo di skater che si era preso uno spazio, si era costruito le rampe. Roma non era, da tuttora magari non ha degli spazi come magari possono avere in Nord Italia o in Europa per andare in skate, quindi i centri sociali era in quel caso il Blitz il posto dove si poteva dare sfogo a queste necessità appunto skaterole. E al contempo lì si facevano anche dei concerti, quindi gli iCircle, tutti loro facevano i Growing Concerts, insomma la Roma Crew faceva i concerti lì, quindi c'è stata questa unione di ragazzi che vengono più dallo skate, al tempo poi i video di skate, le colonne sonore di video di skate che arrivavano dall'America erano tutte condite di gruppi punk o hardcore, non era, insomma, non c'era molto il rap, o c'era, ma comunque era un rap differente. Comunque di fatto il Blitz, poi il Breakout, erano dei posti dove questa scena poi appunto ha iniziato a prosperare, e quindi con gente poi appunto magari di età più giovane che veniva dalle scuole, che semplicemente andava a vedere un concerto e capiva che era una cosa approcciabile da tutti, che non era necessario saper suonare, quindi quella è la cosa secondo me più interessante, come questa cosa nasce in maniera spontanea, senza divismo, senza particolari necessità tecniche, e poi appunto viene fuori tutto il resto della scena. E un momento fondamentale, per esempio, è il Garage, che era un centro sociale di Piazza Sonnino, quindi super centrale a Trastevere, dove vennero fatti questi concerti di pomeriggio, quindi questo ha aperto insomma questo mondo a tanta altra gente che magari di sera non riusciva a raggiungere, non so, il Forte Prenestino. Poi insomma, Roma è enorme, quindi chi non aveva un motorino o qualcuno che lo potesse accompagnare non ci poteva andare sui concerti, e quindi si è trovata in un posto insomma perfetto, così poi è uscito fuori insomma parallelamente c'era il Circo degli Artisti, posti proprio grossi anche con un palco dove si potevano fare queste cose su scala più grande, quindi insomma è una successione di eventi che ha portato a un'apertura sempre maggiore verso un pubblico anche più ampio in termini di generi musicali. Tra l'altro hai fatto riferimento a due centri sociali che non esistono più, il Blitz e il Breakout. In questa tua ricerca hai detto che hai fatto soprattutto, hai raccolto testimonianze, e quindi ti chiedo che dimensioni aveva questa scena a livello di fruizione, e poi immagino insomma è anche storia questa che ha dato vita ad etichette indipendenti, a sale studio, eccetera eccetera. Pensa che insomma, comunque l'evoluzione, quando si guarda al passato delle cose, uno magari anche rispetto allo studio storico, penso sempre che ci siano dei margini temporali oltre i quali o prima dei quali le cose fossero completamente diverse. In realtà è un'evoluzione abbastanza graduale, certo. Si pensa a Paolo Martinelli, Chef Ragù, che suonava nei Block of Flats, erano gruppi che magari musicalmente erano distanti tra loro, però stavano di fatto tutti insieme, perché le possibilità di vivere in maniera alternativa tra virgolette non erano molte, quindi di fatto era un humus che metteva insieme la gente che non voleva fare quello che facevano gli altri, poi ovviamente con l'affinazione dei gusti musicali o delle attitudini o delle necessità che poi ognuno aveva, ognuno si è costruito un po' la sua scena. Quindi che mi chiedevi, la mole della fruizione era abbastanza varia. È ovvio che con i concerti di pomeriggio tutta una serie di minorenni che magari appunto, il giorno dopo doveva andare a scuola o non so che, ha avuto la possibilità di vedersi dei concerti di pomeriggio a 2 lire in dei posti che erano fatti per loro praticamente, e così. La mole del lavoro poi in sé delle testimonianze è stata una cosa enorme, perché è un lavoro di 6 anni non fatto a tempo pieno, però comunque insomma un lavoro che mi ha portato ad avere un corpus di interviste che ammontava a 300 ore, 60 intervistati, quindi il lavoro poi di scrittura del film, poi per necessità di conoscenze in alcuni casi, perché ovviamente molte delle storie io non le sapevo e quindi mi venivano dette lì per lì, la scrittura avveniva mano a mano che si montava e che si bobinavano queste interviste. Bene Giulio, allora ricordiamo intanto il titolo del tuo documentario, RMHC 1989-1999 Hardcore a Roma, la proiezione domani al Cineclub de Tour, e l'orario lo dici tu? L'orario dovrebbe essere alle 9:30 di sera, venerdì 5, al De Tour, e poi di nuovo credo replichino a pranzo, a mezzogiorno e mezzo il sabato, ma questo dovete vedere sul sito loro. Poi se siete, non lo so, se lo sentite in streaming ora questa cosa, sappiate che a Milano il 25 maggio, venerdì, ci sarà un'altra proiezione alla Santeria, alle 8. E poi comunque se guardate il sito rmhc-film.com ci sarà via via un aggiornamento di tutte le proiezioni che ci saranno in Italia, e speriamo fuori. Ci sarai anche tu chiaramente al De Tour? Io no, perché io ora sto a Milano. Va bene. Purtroppo è stata una cosa così organizzata al volo, bene, ma io non ci potrò essere. Va bene, allora ci darai poi aggiornamenti su come sta andando il tuo lavoro. A voglia. Un abbraccio e in bocca grazie al lupo. Grazie mille, a ciao, voi, ciao. Ciao. Giulio Squillacciotti, regista del documentario RMHC 1989-1999, Hardcore a Roma. In collegamento con Silvia Lombardo, co-regista della Ballata dei Precari, presentato al Teatro Valle Occupato, e da quel momento poi ha cominciato il suo tour che lo vedrà in giro per l'Italia. Silvia, benvenuta, ben ritrovata anzi a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Come stai? Direi piena di impegni, per fortuna, lavoro no, perché il lavoro in genere è seguito, diciamo nel vortice c'è un po' che si è scatenato dopo la prima al Valle, ecco, questo ecco. Volevamo, insomma. Intanto com'è andata questa presentazione al Teatro Valle Occupato? Ma è andata che non ci aspettavamo questa affluenza di pubblico, nel senso che sapevamo che c'era interesse, e forse sarà stata un'ingenuità visto quanti sono i precari, però essendo la prima volta che proiettavamo questo film, il 29 aprile a Cavallo di un Ponte, veramente non ci aspettavamo tanta affluenza, e invece c'è gente che è rimasta anche fuori, quindi abbiamo completamente riempito il teatro, c'è stata tanta partecipazione, c'è stata tanta gente che rideva e anche qualche lacrima di commozione. Devo dire che per me è stato un grande risultato, vuol dire che abbiamo portato sullo schermo delle storie che dovevano essere raccontate. Ecco, che storie avete raccontato, per farci capire da chi ci sta ascoltando? Ma guarda, abbiamo deciso di adottare il registro del comico grottesco, perché quello drammatico lo lasciamo a chi non vive la precarietà tutti i giorni, e se avessimo parlato delle nostre storie di precari in questo modo sarebbe stato oltremodo noioso. Invece siamo andati un po' sul grottesco cattivo e abbiamo raccontato sei storie che focalizzano sei problemi chiave secondo noi della precarietà. In particolare siamo andati su primo episodio, sono sei episodi il film, sei commedie. Il primo episodio si chiama Ninna Nanna Ninna No, ed è la storia di una coppia che vorrebbe avere un figlio ma non riesce a far coincidere scadenze contrattuali e nascita del bambino. Si rivolgono a una ginecologa che poi è Geppi Cucciari, che si è prestata gratuitamente per la causa delle mamme precarie, e questa ginecologa ha inventato un dispositivo che regola lo sviluppo del feto a seconda delle scadenze contrattuali, con poi esiti nefasti. E poi abbiamo fatto un episodio stragisti sullo stage, un ragazzo dall'ennesimo contratto senza retribuzione impazzisce e prende lo stage il capo. Si è masterizzato la storia di una ragazza che, pur di non accettare la sua condizione di disoccupata, continua a fare master su master, fino a quando si ritrova masterizzata in un gruppo di sostegno per dipendenti da master e corsi di specializzazione, che poi non portano a nulla, cosa che spesso succede purtroppo. C'è 2050, che è l'episodio ambientato nel futuro, dove tre ex precari vivono per strada a farne i barboni e finiscono in una televendita dove vengono venduti come aiuti domestici. C'è l'ammortizzatore che ha scatenato il panico tra gli over 60 presenti, perché la storia di due genitori che fanno la polizza sulla vita e si fanno ammazzare per lasciare i soldi al figlio precario, perché loro bene o male si sono goduti il boom economico, ma sono tanto preoccupati per questo figlio che non trova una strada, e a 70 anni decidono che è ora di andarsene per lasciare i soldi al figlio. Quindi ecco l'ammortizzatore, perché gli ammortizzatori sociali che sono solo quelli della famiglia. E poi un piccolo riassunto finale, che è Operai, che gioca sulla parola opera e operai, perché è un musical veneziale scritto su aria d'opera, dove un gruppo di precari impiegato in un call center va a caccia di secondi lavori per arrotondare, e poi si scopriranno quali sono questi secondi lavori. Oh, come avete deciso di come le avete individuate queste storie grottesche, e come avete deciso appunto di sintetizzare un panorama in queste storie? Ma dipende un po' da caso a caso. Diciamo che per un periodo noi ci siamo un po' prima abbiamo riflettuto sulle storie nostre personali. Io, Giordano Cioccolini, che è un architetto precario che ha fatto il barman per tanti anni, fino a che non è riuscito poi un po' a mantenersi il suo lavoro, e Tiziana Capogaccia, che è una psicologa, anche lei precaria. Quindi siamo partiti dalle nostre storie, abbiamo raccolto quelle dei nostri amici e poi siamo andati a documentarci via via su giornali, siti web, eccetera, eccetera. e tra l'altro io tenevo anche un blog che parlava di precarietà, da cui poi è nato anche un libro che si chiama come il film, ma che è edito dalla Miraggio Edizioni. Sono anche loro degli ex precari dell'editoria, a un certo punto si sono stufati e hanno detto: ma insomma il lavoro lo sappiamo fare, facciamocela da soli la casa editrice, perché tanto qua non si vede una lira. E quindi ecco, su questa onda della precarietà di massa abbiamo studiato le storie di ciascuno e quelle più tragiche delle persone che c'erano vicine, e sono nati gli episodi. Senti, questo lavoro adesso andrà in tour, comincia il suo tour. Intanto ti chiedo un sito internet per sapere la programmazione. Sì, allora il tour lo potete vedere, stiamo a giorni mettendo le date, su www.laballatadeiprecari.com. Comunque saremo sabato 5 a Teramo, sabato 12 c'è la prima torinese al Cineteatro Baretti di Torino, in via Baretti, poi sono il 26 a Milano e poi abbiamo due date in Sardegna e stiamo accordandoci con Puglia e con Napoli, e piano piano insomma vediamo, certo, le richieste sono sempre di più. Sicuramente ci saranno altre date a Roma, ci stanno arrivando delle richieste. Insomma, la cosa importante per noi è diffonderlo questo film, certo. L'abbiamo fatto per parlare di precarietà. Senti Silvia, in chiusura, come le avete pensate queste date, come piccoli eventi, con che modalità di partecipazione? Beh, quasi sempre con un biglietto minimo gratuito e laddove possibile con la presenza di qualcuno del gruppo che ha fatto il film per parlare, per fare dibattito. Molto spesso invitiamo giornalisti o le organizzazioni che richiedono il film stesse, ne invitano esperti di diritto del lavoro, per cercare anche di fare un dibattito dopo, perché ecco, i due punti secondo me di forza del film sono questi: creare un momento di dibattito per trovare, non dico delle soluzioni, ma delle proposte più concrete da fare, visto che non arrivano le risposte ancora dalle istituzioni. E un'altra cosa che mi ha fatto molta impressione è stato il fatto che il giorno dopo aver visto il film tante persone che conosco mi hanno raccontato di aver avuto degli incubi durante la notte, di aver sognato di essere in pezzi di film, chi faceva colloqui, chi aveva genitori che si facevano ammazzare, eccetera eccetera. E mi ha fatto molta impressione, perché tutti quanti vivono precarie situazioni lavorative da 10 o 15 anni, però è servito un piccolo film fatto da un gruppo di ragazzi, fatto senza soldi, per avere uno specchio in cui guardarsi, riconoscersi e capire la propria condizione. Quindi ha confermato ancora una volta quella che è una cosa che dicono in tanti, che io dico da sempre: la responsabilità sociale della narrazione. La narrazione non è semplicemente un divertimento, un gioco, è anche un modo di dare al popolo, alle masse, al pubblico, chiamatelo come volete, un sistema per spiegarsi, riconoscersi e capire dove sta andando. Secondo me è molto importante. Giusto. Senti Silvia, io ti abbraccio e ti do appuntamento alla prossima volta a questo punto. Come no, vediamo come va questo tour, vediamo se riusciamo a smuovere qualcosa, se ti dico. E magari ci risentiremo proprio in occasione di questo tour. Perché no, molto volentieri, intanto seguite le date sul sito. Un abbraccio, ciao Silvia. Grazie, ciao. Silvia Lombardo, co-regista del film La ballata dei precari, presentato al Teatro Valle Occupato e ora partito in tour. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. Ho un'altra novità, un'improvvisazione rispetto alla scaletta di oggi, è quella che riguarda la rete degli spettatori. Ne parliamo con Claudio Storani, perché comincia mercoledì prossimo, e allora mi sono detto, visto che la mail mi è arrivata verso l'ora di pranzo, ho detto ma inseriamola subito in scaletta e ne parliamo. Allora intanto Claudio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, ciao. Allora, parlacene un po' di questa iniziativa. Sì, l'iniziativa nasce, diciamo, in condivisione con i 100 autori, ed è un'iniziativa che secondo noi è necessaria, nel senso che è il tentativo di creare una rete che mette insieme scuole, sale cinematografiche, spazi pubblici, per dare, come posso dire, più visibilità ad alcuni film, la maggior parte dei film del cinema italiano di qualità, che purtroppo escono in sala, stanno 3 giorni e poi dopo non hanno un ulteriore percorso, insomma, quindi agli spettatori, come diciamo noi, di esercitare il loro diritto di scelta. Ma per esercitare un diritto di scelta c'è bisogno pure, insomma, appunto, di poter vedere dei film diversi, di poter apprezzare appieno, insomma, la qualità del cinema italiano, che è tanta, ecco. Allora Claudio, non c'è solo Roma, ma anche altri luoghi e non, no. E non insomma, rappresentanti anche della cosiddetta provincia. Sì, sì, anche perché appunto la rete vuole essere un percorso, una rete di carattere nazionale. Allora c'è Roma, però contemporaneamente c'è anche ad esempio Marciano e Perugia, Cinema Zenit e Cinema Concordia di Marciano, c'è il Cinema San Marco di Benevento, c'è il Cinema Garibaldi di Poggi Bonzi, cioè inizia la creazione di questa rete, appunto, di questo contatto tra esercenti, distributori, come posso dire, insomma, autori, ecco, soprattutto questo, e noi spettatori, per ricreare quella che è la filiera più sana, insomma, del cinema italiano e potergli garantire una sopravvivenza, ecco. Quindi noi partiremo adesso il 9 maggio, perché a Roma, ecco, soprattutto questo, insomma, il 9 maggio alla Casa del Cinema di Roma presenteremo Male di Miele di Marco Puzzi alle 16.30 con lo stesso regista in sala e il critico Federico Pontigia, del cinematografo, che verrà a illustrare, insomma, ecco, ad approfondire insieme agli spettatori questo film. Pensa, Claudio, che Marco Pozzi è stato nostro ospite una o due settimane fa per Male di Miele. Beh, e Federico Pontigia è una delle voci abituali di questa trasmissione. Dai, perfetto, vedi, alla fine la rete già si sta creando. Esatto. Insomma, ecco, senti, va a chiudere, insomma. Senti Claudio, immagino che questo sia anche un programma in divenire, però ti chiedo al momento, visto che parlavi di rete, quante sono le sale a disposizione e quante opere state proponendo? Allora, le sale a disposizione sono tante, soltanto che come insomma, tu sai, adesso arriviamo a maggio, quindi molti cinema, insomma, ci sarà la chiusura estiva, stiamo trattando con le arene. Le sale sono molte, nel senso non c'è un numero preciso, però per dire a maggio avremo appunto già 5 sale, noi siamo in questo mese, a maggio abbiamo già 5 sale e ce ne sono tante che entreranno nella rete. Film che noi presentiamo quest'anno sono 27 titoli scelti da una giuria molto prestigiosa, insomma, nominata dai 100 autori, e questa giuria ha scelto 27 titoli importantissimi, usciti negli ultimi praticamente 2 anni, anche alcuni documentari, e noi cerchiamo appunto di dare loro questa ulteriore possibilità. Diciamo appunto che questo maggio sarà un po' un rodaggio, avremo alcuni passaggi estivi nelle arene, in alcune arene italiane, e poi da settembre partiremo invece proprio con la stagione forte, diciamo, vera e propria, attraverso questo circuito che mette insieme spazi pubblici, quindi comunali, regionali e provinciali italiani, mette insieme le sale private con gli esercenti e poi anche le scuole, insomma, dove sarà possibile, faremo anche delle proiezioni nelle scuole, soprattutto per quegli istituti già attrezzati a questo tipo di percorso, insomma, a queste proiezioni, perché secondo me è un po' la carta in più, insomma, quella possibilità di poter creare anche un circuito delle scuole, perché no, insomma. Certo. Mi citavi la scelta di opere che rischiano l'invisibilità. Allora ti chiedo anche se la formula prevede, come immagino che sia, la presenza degli autori e dei prezzi accessibili a tutti. Assolutamente sì, ecco, questi sono due elementi, diciamo, forti. Ecco, innanzitutto la presenza degli autori, perché noi crediamo che il cinema italiano sta esprimendo delle cose molto importanti, ma ha delle possibilità ancora più forti di espressione, però deve cercare di recuperare quello che è un po' il contatto con il pubblico, insomma, che è venuto a mancare in questo ultimo periodo, insomma, in questi ultimi anni. Se un regista non ha un proprio pubblico, ecco, diventa difficile poter ambire a una dimensione più universale. Dall'altra c'è questa dimensione, appunto, un prezzo conveniente, insomma, ecco. Noi, ad esempio, alla Casa del Cinema, con le 4 proiezioni, il prezzo sarà un biglietto unico di 5 euro per sostenere queste opere molto importanti, perché presenteremo anche, ad esempio, La Ba, sì, di Guido Lombardi, un film importantissimo che ha vinto molti premi, e 2 documentari altrettanto molto belli, Per questi stretti morire di Isabella Sandri e Giuseppe Caudino e La vita al tempo della morte di Andrea Caccia, che sono 2 documentari molto importanti, insomma, che hanno partecipato anche, soprattutto per questi 7 morire, ha partecipato alla selezione per il Davide, insomma, quindi presentare cose importanti ad un prezzo accessibile a tutti, insomma, perché penso 5 euro per un biglietto siano in questo momento, insomma, anche un prezzo ragionevole. Certo. Ti tranquillizzo sulla diffusione della rete, perché tutti i titoli e gli autori che hai citato sono stati i nostri ospiti, per cui insomma qualcosa c'è che si muove, insomma. No, ma è esattamente questo, cioè, quello che noi diciamo è noi non facciamo niente di più che cercare di, come posso dire, essere l'ultimo, il penultimo anello della catena, insomma, perché certo. Questi film girano tra cineclub, soltanto secondo noi quello che manca, c'è una certa frammentarietà, invece sì, dovremmo stare più uniti, insomma, parlarci di più, interagire di più e far sì che gli spettatori e i registi possano veramente, insomma, aprire un confronto diretto, avere anche un potere contrattuale nei confronti del mercato, ecco. Claudio, in finale dacci i riferimenti in rete per la rete degli spettatori. Sì, allora, noi per adesso noi abbiamo il nostro profilo, la nostra pagina Facebook Rete degli Spettatori e l'indirizzo sul sito che stiamo preparando, insomma, per adesso è soltanto una prima pagina di informativa, che è www.retedegliespettatori.com. E però attraverso la nostra pagina Facebook, insomma, lì avrete tutti gli appuntamenti di cui abbiamo parlato, cioè quindi Perugia, Marciano, Benevento, Poggi Bonsi e Roma e gli altri che stanno entrando, insomma, ecco. Bene, allora ricordiamo anche il primo appuntamento e poi ci risentiremo per gli aggiornamenti delle iniziative. Sì, allora noi saremo mercoledì prossimo, 9 maggio, alle 16.30 alla Casa del Cinema con Mare di Miele di Marco Pozzi. Benissimo, allora un abbraccio e a presto. Grazie, un saluto a voi. Ciao Claudio. Ciao. E lui era Claudio Storani della Rete degli Spettatori. Proseguiamo. È con noi Massimo Barilla, co-regista del documentario 26 settembre 1970, Il cielo limpido. Ciao Massimo. Buongiorno a tutti. Questa volta ci sentiamo non in ambito teatrale ma cinematografico, nella mia trasmissione di cinema, perché tutto parte da uno spettacolo teatrale, se non sbaglio. Esattamente, è una sperimentazione proprio che a partire da uno spettacolo di teatro di impegno civile vuole un po' incrociare i linguaggi del documentario con quello appunto della narrazione teatrale. Allora, una storia che riguarda questo paese non troppo recente ma neanche troppo lontana, era il 1970, cosa successe Massimo? Successe che normalmente noi il biennio 69-70 tendiamo a identificarlo con la nascita della strategia della tensione solo per i fatti più noti, ma all'interno di questo contesto più generale c'è una situazione in pieno sud, a Reggio Calabria, dove a partire da una rivolta che in origine è popolare ma che poi viene strumentalizzata da fasce eversive legate ai servizi e comunque alla destra eversiva, appunto si verificano una serie di fatti concatenati tra di loro e di grandissima importanza. Dentro questo contesto, che sono appunto i fatti di Reggio, la rivolta di Reggio Calabria, che è la più importante, imponente rivolta urbana in Europa dal 1848 in poi, se si esclude la questione irlandese, all'interno di questo contesto si verificano una serie di cose che ci collegano al Gotteborghese, ci collegano ovviamente al contesto più generale nazionale, e c'è una storia anche di cinque giovanissimi anarchici reggini che si muovono attraverso questo contesto e fanno una sorta di azione di controinformazione che li porterà alla morte. Tra l'altro, ecco, ricordavo il vostro spettacolo che è 70 volte Sud, e c'è anche Ulderico Pesce che si è occupato di questa vicenda degli anarchici morti in maniera piuttosto curiosa in autostrada. Sì. Allora, come avete sviluppato questo lavoro cercando di contaminare, commistionare questi linguaggi tra il cinema e il teatro? Guarda, la struttura drammaturgica dello spettacolo teatrale era in fondo già strutturalmente molto, molto vicina a una struttura più da film, sì. Nel senso che sono tre viaggi che si incrociano, e sono il viaggio dei ragazzi che partono da Reggio per portare questo dossier a Roma e non ci arriveranno mai, il viaggio, diciamo, simbolico della nascita della rivolta fino alla sua strumentalizzazione, e il terzo viaggio è quello del treno del sole che parte da Palermo il 22 luglio del 70 diretto a Torino, ma si ferma a causa di una bomba Joy Tower con 6 morti e 70 feriti. E proprio su questo elemento che è connesso alla rivolta i 5 giovani indagavano, e su questo portavano questo dossier che stranamente scompare con loro. Senti, com'è andato finora lo spettacolo, che insomma ha già qualche anno? Sì, lo spettacolo è andato molto bene, devo dire. Ha girato un po' tutta l'Italia con una cinquantina di repliche, quindi ha consentito di portare, da un lato, di portare fuori questa storia anche al di là dei confini regionali, dove un po' sempre è stata confinata, e dall'altro una vera riproduzione della memoria anche sul territorio, che è fondamentale. Perché stranamente questa storia, a distanza di una generazione, proprio perché è una ferita aperta, si tende un po' a metterla da parte. Oh, in questo approdo al linguaggio cinematografico vi siete anche incontrati con due cineasti, uno dei quali Arturo è anche stata una voce importante di questa radio. Sì, la collaborazione con Arturo Lavorato e Felice D'Agostino nasceva già dallo spettacolo teatrale, sì, nel senso che nello spettacolo c'erano tutta una serie di inserti video che aiutavano la narrazione più da un punto di vista descrittivo, da un punto di vista simbolico. Qui il lavoro è completamente diverso, nel senso che nel periodo di ricerca per lo spettacolo avevamo raccolto tantissimi materiali d'archivio, che ovviamente non sono confluiti nello spettacolo puramente teatrale, e quindi l'idea è partita da qui, dall'avere questo ricchissimo materiale d'epoca, che si tratta di immagini d'archivio, di fotografie, di produzioni degli stessi ragazzi, degli stessi giovani anarchici, perché uno di loro era un bravissimo pittore e fotografo. Tra l'altro, tragicamente, lui verrà, c'è questa vicenda che verrà invitato a esporre ad Amsterdam, e questa lettera gli arriverà immediatamente dopo la morte, arriverà alla famiglia. E quindi, avendo questo grandissimo ricchissimo materiale, abbiamo provato a sperimentare questa forma mista, nel senso che è una sorta di docufilm in cui, al posto della fiction, si utilizza la narrazione, ovviamente pensando ad hoc anche le forme del linguaggio filmico. Quindi le riprese non sono semplicemente delle riprese dello spettacolo, ma sono riprese fatte ad hoc per questo tipo di produzione, sia in teatro, ma anche in esterni, nei luoghi in cui avvennero i fatti. Massimo, in conclusione, che tipo di percorso avete pensato per questo vostro lavoro cinematografico? Guarda, già la notizia un po' nel mondo teatrale di questa uscita ha creato un parecchio interesse, nel senso che in pochissimi giorni ci sono arrivate molte richieste di maggiori informazioni e di possibili proiezioni in giro per l'Italia. Sì. Noi vorremmo anche farlo diventare un prodotto editoriale, quindi agganciandoci anche il testo dello spettacolo, il testo originario, che non è esattamente quello del film, e tutta una serie anche di ulteriori documenti che abbiamo raccolto. Quindi un po' a partire da questo dovrebbero partire queste due forme di diffusioni parallele che speriamo facciano viaggiare il più possibile questa storia. E su internet dove si può cercare per 26 settembre 1970 Il cielo limpido? Guarda, allora presto sul sito della Fondazione Ocinus Orca, che coproduce appunto questo film, già qua, per avere notizie di quello che è stato questa prima presentazione, anche sul sito del Teatro Siracusa di Reggio Calabria, che ho spiegato la prima, teatrosiracusa.it. Benissimo. Massimo, allora a risentirci presto. Grazie a te, grazie a tutti. Un abbraccio, ciao. Ciao, a presto. Massimo Barilla, co-regista del documentario 26 settembre 1970, Il cielo limpido. Continuiamo con gli ospiti, a visionari. Allora, siamo in collegamento con Cosimo. Ci sei, Cosimo? Sì, ci sono. Cosimo Terlizzi, regista del documentario Folder, che sarà ospitato a Contest, la rassegna al Nuovo Cinema Aquila, il 6 e il 7 maggio prossimi. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Cosimo. Grazie, grazie della telefonata. Allora, Folder è un lavoro, diciamo, un po' a sé stante come tipo di progetto. Infatti, di cosa si tratta? Raccontiamolo un po' per sommi capi, Cosimo. Sì, Folder, come dice il titolo, è un dossier e idealmente io accedo nel mio archivio personale, apro questo dossier all'interno del quale c'è un anno di archiviazione di immagini, video, suoni che ho raccolto e ho montato, e questo montaggio di file diventa un vero e proprio film. Però si tratta comunque di un diario intimo, di un documentario vero e proprio, di una realtà, della mia realtà, e quindi però in relazione comunque al nostro contesto contemporaneo, e la volontà è quella di fare la metafora alla nostra contemporaneità. Mm-hmm. Senti, in base al fatto che, ecco, hai raccolto queste immagini, questi suoni, ti chiedo: qual è la tua attività quotidiana? Io sono realizzo opere, praticamente lavoro come artista nel campo audiovisivo. Sì. Realizzo opere fotografiche e video. Sono in una ricerca audiovisiva che mi prende da un bel po' di anni, e vivo in Svizzera, una galleria in Italia mi rappresenta, e quindi alla fine lavoro proprio nel campo dell'arte contemporanea a tempo pieno. Senti, hai voluto dare una struttura narrativa o comunque si tratta di quadri a sé stanti e legati tra loro? No, guarda caso, cioè, è proprio la cosa eccezionale che alla fine mi sono reso conto che era tutto come un puzzle, che alla fine il film è veramente risulta narrativo, addirittura con una drammaturgia interessante, nonostante si tratti comunque di un diario, e questa è in effetti si tratta di un anno molto particolare, dove sono successe alcune cose che secondo me era interessante mettere a fuoco. Ecco, è stato questo il motivo che ti ha spinto a rendere pubblico un diario privato? Sì, è stato questo, la necessità di usarmi come veicolo, dove io non sono l'unico protagonista, ma i protagonisti sono tutte le persone che sono entrate in contatto con me e tutti i luoghi che io ho visitato, e che si tratta di posti europei, comunque all'interno del circuito europeo. Mm-hmm. Senti, rispetto al fatto che si tratta di un lavoro e tu ti occupi, insomma, di arte visuale, che rapporto metti l'immagine con la parola in generale nella tua attività e poi nello specifico in questo folder? Beh, per me l'immagine è già un testo, va letta, se l'immagine la si può leggere come un testo, e la parola è un'immagine, quindi si compensa, e sono due livelli, due mezzi diversi, e nel film Folder c'è sia immagine che test, che parola, quindi sono due linguaggi che si intrecciano nelle modalità che appartiene a queste due entità, quindi la parola è usata in un certo modo, l'immagine in un altro, e in questo senso è un po' complicato, però in realtà poi alla fine risulta tutto molto chiaro, si vede il film. Senti Cosimo, Folder ha avuto anche una sua circuitazione, se non sbaglio è stato anche all'interno del Via Emilia Doc Fest, ecco, volevo chiederti che tipo di riscontro ha avuto? Ma sì, Folder è praticamente un lavoro che ha una, l'ho fatto nel 2010, però ha una crescita lenta, e nel senso sta durando nonostante sia comunque un lavoro prodotto da indipendente, ed è una cammina, va avanti in modo appunto così indipendente. Devo dire che sono molto contento perché sta avendo dei riscontri nel tempo sempre più interessanti e sempre più importanti, e ho partecipato a diversi festival ed è richiesto nel cinema ad essere sempre più frequente, quindi sono molto contento che alla fine quest'ultimo anno sto raccogliendo un po' di risposte interessanti, molto interessanti. Allora, prima ti chiedo per questi due appuntamenti del 6 e il 7 maggio qui a Roma al Nuovo Cinema Aquila se vedranno anche la tua presenza. Sicuramente credo che il 6 domenica sarò presente, ci sarà l'introduzione di Massimo Vattani e io sarò presente ed eventualmente introdurrò il film e risponderò delle eventuali domande. Bene. E poi ti chiedo se Folder in rete c'è un sito o un luogo dove si possono avere maggiori dettagli su questo lavoro. Sì, c'è il mio sito che è cosimoterrizzi.com, dove ci sono tutte le info e anche di altre cose del mio, che riguardano proprio il mio lavoro più in generale. Benissimo. E dove, insomma, sì. Allora, un abbraccio e grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao Cosimo. Grazie mille. Ciao, grazie. Cosimo Terlizzi, regista del documentario Folder, all'interno della rassegna Contest presso il Nuovo Cinema Aquila, domenica 6 e lunedì 7 maggio prossimi. Ho un aggiornamento dalla scuola di cinema documentario Cesare Zavattini. Dopo il primo appuntamento di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, ce n'è un altro con Gian Domenico Curi, che sarà docente nella lezione, a lezione con, questo è il titolo della rassegna all'interno della scuola Zavattini, oggi, proprio oggi pomeriggio 3 maggio. Allora Gian Domenico, intanto benvenuto a Radio Onda Rossa su Visionari. Grazie, buongiorno a voi. Di cosa si tratta? In cosa consisterà la lezione di oggi? La Zavattini è una scuola di documentario, quindi restiamo legati, diciamo così, a questa impostazione. Certo. E allora noi affrontiamo il cinema rock legato appunto al documentario, quindi escludendo tutti i film di fiction, che pure sono belli e interessanti, ma insomma rientrano in un altro ambito. Ecco, affrontiamo invece come il documentario ha raccontato la grande stagione, questa volta la grande stagione dei concerti, cioè partendo sostanzialmente da Woodstock, e quindi è quello che è rimasto insomma legato a quell'immagine, no? dei concerti di massa, sì, pace, sì, amore, sì, chitarre, erba, eccetera, sacchi a pelo e così via. Quindi questo è un po' il taglio. Partiamo da una piccola premessa, che è anche un documentario inedito, che è un film su Bob Dylan. Sì. E si chiama The Other Side of the Mirror, l'altra parte dello specchio, perché è un film che focalizza il famoso discusso passaggio di Dylan dall'acustico all'elettrico, che è, diciamo, uno dei nodi, uno dei miti, no, della scuola, della storia del rock. Sì. Ed è interessante perché, ecco, io dico sempre poi l'importanza del cinema. Questo documentario di Lerner, che poi è lo stesso che farà poi il documentario sull'isola di Wight, racconta questi 3 anni perché avvenne al Festival di Newport il misfatto, diciamo così. Lui analizza, ecco, questi 3 anni cercando di farci capire come è cambiato Dylan e come è cambiata la sua musica e come questo cambiamento si inserisce all'interno poi della sua poetica, della sua volontà. Lui dice a un certo punto la musica folk è un paradiso troppo perfetto e io devo assolutamente fuggire, dice, questo bisogno di libertà, di non legarsi a schemi, ma insomma anche questa totale libertà di esprimersi come si sente, insomma, ecco. Quindi ecco, questa è un po' la premessa, ma proprio per dimostrare come poi il cinema documentario abbia questa capacità di leggere la realtà, di leggere i movimenti, di leggere i cambiamenti. Gian Domenico, sei partito da un evento e da una data precisa, quella di Woodstock, e c'è anche una data conclusiva? Diciamo che per ora ci affacciamo semplicemente sulla New Wave. New Wave. Io finisco, sì, diciamo, le mie proposte, che poi ci saranno naturalmente anche dei materiali da far vedere, con tre filmati a mio avviso emblematici in qualche modo, che sono i Clash, che fanno London Calling, Patti Smith, che fa Rock and Roll Nigger, e i Talking Heads, con un altro dei loro pezzi, insomma. Quindi sono 3 immagini della New Wave che probabilmente, diciamo, poi ci apriranno il secondo capitolo. Quindi, diciamo, arriviamo grosso modo a metà degli anni 70, 76-77, quando arrivano le prime armate, appunto, della punk generation, quindi di un altro modo di fare la musica e anche di fare il documentario. Quindi comunque ti muovi in ambito rock. Ci muoviamo in ambito rock, però insomma nell'ambito classico, quindi cerchiamo di raccontare. Il 69 è un anno cruciale perché non c'è solo Woodstock. Sì. Io dico sempre che gli anni 60 sono come una una tavola inclinata, ma per cui poi tutto confluisce verso la fine. Nel 69 c'è Gimme Shelter, quindi il famoso concerto dei Rolling Stones ad Altamont, dove ci scappa il morto, ed anche c'è uno straordinario documentario dei fratelli Miles che raccontano esattamente cosa succede. Ed è un film straordinario perché ci sono gli stessi Rolling Stones alla Mugliola che si guardano e che si raccontano e che commentano il loro concerto. Nel 69 però c'è anche Toronto, dove arriva John Lennon, che ha appena mollato i Beatles e torna a scoprire i vecchi rocchettari anni 50, e quindi c'è un po' un ritorno alle origini. Ecco, quindi c'è varie cose dal 69 e poi ci allunghiamo sui primi anni 70 sulle altre cose. Ecco, Gian Domenico, quali diciamo quante opere più o meno analizzerete e che provenienza hanno, da quali paesi? Beh, la maggior parte sono naturalmente angloamericani, non si scappa in qualche modo. Beh, allora diciamo che il film di Dylan, anche perché è inedito in Italia, lo vediamo per intero. E poi avremo una serie di spezzoni dagli altri. Quindi, ma diciamo che analizziamo un po' tutti i grandi, quindi che poi più che le opere, io ho cercato di lavorare sui personaggi, cioè come i Beatles cambiano anche il documentario, per esempio, no? Come inventano un nuovo modo di fare musica, ma anche un nuovo modo di fare cinema, mm-hmm. che sono chi si avvicina a loro in qualche modo ne subisce l'influenza. E lo stesso, per esempio, poi naturalmente parliamo di due pezzi di Hendrix, che è un altro elemento, cioè c'è Hendrix, c'è questo rapporto con la musica e quindi con la chitarra, no? Che viene continuamente analizzato dai filmmaker, no? Questo rapporto quasi fisico, quasi d'amore, insomma, di come suona, di come maltratta la chitarra, ma anche come l'abbraccia, la struscia, quindi è un modo, no, di capire attraverso le immagini come appunto funziona il rock. Io dico sempre, perché poi io insegno semiologia a Roma 3, insegno la scienza della formazione, io dico sempre che di usare il cinema nelle scuole, perché il cinema fa capire delle cose che altrimenti non si capirebbero. Secondo me, come cresce una pianta di insalata, i ragazzini la capiscono meglio se gli fate vedere un montaggio della pianta che man mano cresce e tante cose. Quindi non è soltanto una roba di evasione, ma serve anche proprio a leggere la realtà. Ecco. Ecco, proprio a proposito di realtà, Gian Domenico, sicuramente è un fenomeno quello dei concerti di massa che ha determinato anche l'oggi, però rispetto all'oggi non ci sono fenomeni analoghi secondo te? Beh, non ci dimentichiamo che Woodstock ha avuto le sue tappe successive, quindi ogni 25 anni, ogni 20 anni, poi in qualche modo la gente è ritornata, ma oggi purtroppo non c'è più lo stesso effetto perché è stata sostituita dalla televisione, ahimè. Insomma, se pensiamo poi l'ultimo grande concerto, il famoso concerto di Londra per la pace, cioè era diventato una mondovisione con i cantanti che si spostavano da Londra a Los Angeles, però poi la grande platea era quella televisiva, in qualche modo, quindi anche perché sono mancano quelle che erano le motivazioni di Woods, no? questo ritrovarsi, questo movimento che c'era dietro, questo occupare in qualche modo questo spazio per la prima volta, cioè a un certo punto uno dei cantanti sale sul palco e dice: noi siamo una piccola nazione, siamo quasi un milione di persone, abbiamo occupato tutto lo Stato, cioè quindi era una presenza, hanno bloccato tutte le strade, c'era una presenza visibile molto forte, era anche una voglia di stare insieme, di ritrovarsi, di contarsi. Poi tutto questo entra in crisi, insomma, entra in crisi negli anni 70 e poi soprattutto si trasforma perché arriva in Europa, arriva in Italia, diventa il famoso proletariato giovanile che ha i suoi concerti, che ha i suoi momenti di incontro e di lotta e di visibilità, e poi anche lì però c'è una conclusione che sostanzialmente poi è quello che succede nella seconda versione del Parco Lambro, ecco, in cui in qualche modo insomma si è organizzato da Rennudo a Milano, dove poi si arriva alla fine, e anche lì c'è un bel documentario di Alberto Grifi che però insomma fa storia a sé, io adesso lo cito solo en passant. Va bene. Allora, ricordiamo a questo punto, mi sembra molta carne sul fuoco, interessante sicuramente questa a lezione con Gian Domenico Curi, scuola cinema documentario Cesare Zavattini. Allora, ricordi tu l'orario e il luogo preciso? Allora, l'orario è alle 4, però cominciamo con questa proiezione, quindi c'è, diciamo, un'ora e 20 di tranquillamente in cui la gente arriva, si vede un po' di materiali. Dopodiché andiamo avanti per un paio d'ore vedendo appunto circa un'altra ora e passa di cose straordinarie. E il luogo è su via Ostiense, il numero dovrebbe essere 103 esattamente, grosso modo di fronte alla terza università, quindi è una zona che gli studenti conoscono molto bene. Bene, allora a tra un'ora. D'accordo. Grazie a voi. Presto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, ciao. Gian Domenico Curi, docente di a lezione con la scuola di cinema documentario Cesare Zavattini. Oh, mi dicono che la trasmissione Stona Faula comincerà con qualche minuto di ritardo e allora abbiamo anche il tempo per terminare la nostra scaletta con Giorgio Cugno, regista di Vacuum. Intanto ben trovato a Visionari, benvenuto a Radio Onda Rossa. Grazie mille Federico, saluto tutti gli spettatori. Allora Giorgio, il tuo lavoro Vacuum, questo film, ha conosciuto un notevole successo al Festival del Cinema Europeo di Lecce, concluso da poco. Sì, è diciamo un successo, ma soprattutto anche per il fatto che all'interno della programmazione del festival è avvenuta l'anteprima di Vacuum, perché in realtà fino ad allora non era stato proiettato in pubblico, e quindi è stato veramente molto importante, è stato molto importante questo festival innanzitutto come occasione di confronto sia con il pubblico che con la critica, e il fatto che sia stato ben accolto ovviamente non può altro che darci un bel riscontro, ecco. Allora parliamo subito per far capire chi ci ascolta. Vacuum, di cosa parla? Allora, Vacuum fondamentalmente parla della tematica della depressione post-parto, e in realtà cerca anche di tracciare una sorta di ritratto generazionale, perché all'interno dell'iter narrativo proposto all'interno di Vacuum abbiamo una ragazza e un ragazzo che sono diventati rispettivamente mamma e papà da poco, e però allo stesso tempo, portando avanti anche il loro ruolo di genitori, devono relazionarsi con i problemi della società contemporanea. Questo è. Oh, tra l'altro abbiamo parlato la settimana scorsa di un altro film che è uscito ora in sala, proprio riguardante il tema della depressione postpartum. Sì, quale? Maternity Blues. Anche se immagino che il tuo film sia precedente, in attesa di una distribuzione. Sì, in realtà il nostro film è del 2012, cioè nel senso che la post-produzione è terminata nel febbraio 2012, però le riprese sono state lunghe, perché a differenza, per esempio, che ne so, di un film come Maternity Blues, che ha, da quello che so, dovrebbe avere sui 400-500 mila euro di budget, il nostro ne ha 10 mila. Quindi è decisamente più ridotto. Senti, è un'analogia curiosa anche che siano due registi uomini a parlare di depressione postpartum. Sì, in realtà le motivazioni che mi hanno spinto ad analizzare questa tematica partono, vabbè, prima di tutto da un'idea per un documentario. Sì. In realtà Vacuum era nato come documentario. Ho portato avanti un percorso nel quale ho raccolto una serie di interviste per un periodo circa di un anno e mezzo, e l'unico problema è che quando mi sono ritrovato di fronte al materiale, quindi al girato, a quel punto lì non me la sono più sentita di utilizzare queste testimonianze, nel senso che definiamo in questo viaggio, dove all'inizio ero un occhio esterno, pian piano sono rimasto sempre meno all'esterno, sono sempre più entrato all'interno, e oltretutto queste dichiarazioni, queste testimonianze, secondo me l'utilizzarle in un documentario così com'erano era veramente rischioso, era un po' come strumentalizzare lo stigma e la sofferenza altrui, quindi per quel punto non me la sono più sentita e abbiamo utilizzato tutto il materiale raccolto in realtà per la stesura di una sceneggiatura. A questo punto ti chiedo la spinta iniziale, come è partita intanto di realizzare un documentario che poi in corso d'opera si è trasformata nella volontà di farne un film? Sì, la spinta iniziale diciamo che è partita dal fatto che io personalmente così ho avuto un episodio in famiglia legato alla depressione postparto. E elemento del quale tendo a sottolineare che la depressione postparto non vuole per forza di cose portare a un evento drammatico, quindi alla morte di un bambino o via dicendo, nel senso che la depressione postparto è una patologia che può comportare diversi tipi di situazioni, no? Nel senso che ci sono molte donne soffrono di depressione postparto, c'è chi magari ci rientra per un mese, c'è chi va avanti anni, quindi non è abbastanza soggettivo, ecco. Come il problema è che spesso, secondo me, a livello mediatico si tende magari a strumentalizzare questo tipo di problematica facendo riferimento ai fatti di cronaca e quindi la solito discorso della spettacolarizzazione del dolore, insomma. Sì, è un po' quello il problema, mentre in realtà sarebbe, secondo me, sarebbe un discorso da affrontare in maniera un pochino più diretta, anche perché comprende più persone di quanto poi in realtà si possa immaginare. Poi, come dico, sottolineo sempre questo, che la depressione postparto non vuol dire per forza avere una madre, cioè avere un infanticidio o via dicendo, perché purtroppo la gente, cioè, spesso è a quello che pensa quando sente dire depressione postparto. In realtà ci sono molte persone che soffrono e vivono delle condizioni di estremo disagio, e non solo, soprattutto donne, ma anche le famiglie o le persone che gli sono accanto, che magari spesso non sono preparate, non sono pronte ad affrontare questo problema. La scorsa settimana ci trovavamo a parlare di delle cause che per esempio Gattani individuava nel suo lavoro, con la determinazione di ruoli come quello di madre e la solitudine di cui soffrono molte di queste donne che poi accusano questo malessere. Sì, la solitudine prima di tutto. Sì. E più che altro il perdere se stessa. Cioè, questo è quello che ho notato dal percorso precedente alla scrittura, e poi ovviamente è emerso anche sul lavoro rispetto alla costruzione del personaggio con l'attrice, perché è poi a quello che abbiamo fatto riferimento. Senti, in realtà sì, è proprio il perdersi dentro se stessi, ed è per quello da lì il titolo Vacuum, perché è proprio una sorta di vuoto che pian piano si impadronisce dell'anima, no? della protagonista. Senti, ecco, come hai strutturato il tuo film, che io non ho avuto modo di vedere? Fondamentalmente il film ha una struttura narrativa molto lineare, anche a livello di grammatica, di immagine. Parte delle prime inquadrature molto, molto fisse, molto confezionate, per arrivare man mano che andiamo avanti con la narrazione nell'utilizzo sempre più presente del fuorifuoco, della camera a mano, proprio un po' per sottolineare la deriva e il destabilizzarsi della psicologia della protagonista. Giorgio, in chiusura, Vacuum che tipo di futuro avrà prossimamente? È prevista una distribuzione in sala, e poi se c'è un sito internet dove si possono avere più informazioni? Sì, al momento Vacuum è in visione in alcune selezioni di alcuni festival europei, sì, dai quali però attendo delle risposte, quindi non posso. Già il fatto che comunque ci sia stato interesse dopo il Festival del Cinema Europeo, abbiamo avuto parecchie proposte. A livello distributivo al momento delle proposte più concrete, una proposta più concreta l'abbiamo avuta da una distribuzione francese, e per quanto riguarda l'Italia al momento abbiamo solo delle voci, ma non nulla di concreto, quindi straordinario che siamo mossi prima dalla Francia. Bene, senti Giorgio, allora io ti abbraccio e a questo punto ti dico a risentirci presto, magari anch'io, per l'uscita in sala, spero di riparlarne con te. Lo spero volentieri, grazie Federico. A presto, ciao Giorgio. A presto. Ciao. Bene, è tutto per Visionari. Tutte le informazioni della scaletta di quest'oggi le trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di domani venerdì 4 maggio, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti in giro per l'Italia per quanto riguarda la settimana cinematografica e poi link per leggere recensioni e riascoltare la puntata precedente.